Storie italiane. L'avaro nel cespuglio. C'era una volta un povero contadino. Lavorava per un astuto capo, il fattore. Il fattore lo faceva sempre lavorare giorno e notte nei campi, senza mai pagarlo. Vuoi dei soldi per lavorare nella fattoria? Questa è la cosa più divertente che abbia mai sentito. Nessuno paga i contadini per fare un lavoro così semplice. Io pago per la tua casa e per il tuo cibo. Non è abbastanza? Sai quanto mi costa il cibo? Voglio dire, dai, hai davvero bisogno di 3 pasti al giorno? Certo che ne ho bisogno. Lavoro duramente nei campi. Oh, è solo coltivare. Quanto duro potrà mai essere? Ok, ora ho altre cose da fare. Mese prossimo fai la stessa battuta e io ci ripenserò. Il contadino se ne andava sempre deluso dalla casa del fattore. Pensò di lasciare il lavoro molte volte, ma aveva paura di non trovare altri lavori. I mesi passarono senza che il contadino ricevesse alcun soldo. Poi un giorno... Basta! Sono stufo! Non sono felice qui! Non posso più lavorare così! Signore, ho lavorato qui per 3 anni! Merito di essere pagato! Non me ne andrò finché non avrai pagato ogni centesimo per il mio duro lavoro! Hai ragione! Ecco qua! 1, 2, 3! Che cosa? Solo 3 centesimi? Solo? Cosa intendi con solo? Questi sono 3 centesimi! Quando è stata l'ultima volta che sei uscito nel mondo reale? Cosa ne sai? Questa è una fortuna! Ah, è così? Bene, allora. Se ho guadagnato una fortuna, allora non ho più bisogno di lavorare per te. Cosa? Non voglio più lavorare per qualcuno che non mi apprezza. Un giorno la mia onestà e il mio duro lavoro saranno ricompensati. Addio! Il contadino lasciò la fattoria. Sapeva che 3 centesimi non erano abbastanza, ma era felice di avere un po' di soldi per sopravvivere. Un po' più avanti, il contadino udì uno strano rumore. I singhiozzi venivano da dietro un albero. Si avvicinò e chiamò. Tutto bene? Perché sei qui? Non ho niente che tu possa rubare. Rubare? Perché dovrei rubare da te? E perché piangi? Sei ferito? Un uomo crudele ha rubato la mia pentola d'oro. L'avevo trovata ai piedi di un arcobaleno e... Ai piedi di un arcobaleno? Pensavo fosse solo una storia. No, non lo è. Avevo il mio oro, ma ora non c'è più. Oh, per favore non piangere. Bene, non posso darti quanto hai perduto, ma posso darti questi. Questo non è molto, ma è tutto ciò che ho. Oh, ma poi tu cosa farai? Non preoccuparti per me, me la caverò. Sembra che tu abbia bisogno di questi soldi più di me. Lo sapevo che eri tu! Lo sapevo che non mi avresti deluso! Eh? E chi sei tu? Uno spiritello folletto! Ci mandano sulla terra ogni anno per trovare un uomo che si meriti la nostra magia! Sono stupito dalla tua bontà, amico mio! Dimmi, che cosa desideri? Posso garantirti 3 desideri, uno per ogni moneta! Oh, questo è strano! Mi stai dicendo la verità? Dimmi i tuoi desideri e lo saprai! Il contadino pensò per un po'. Alla fine decise cosa chiedere. Ho deciso! Per prima cosa, desidero avere un arco che faccia cadere qualsiasi cosa alla quale io spari. Poi, un violino che farà ballare tutti quelli che mi sentiranno suonare. E terzo, vorrei che tutti mi dessero quello che chiedo. I tuoi desideri sono esauditi! Usali saggiamente! Il contadino era ora più felice che mai. Camminò allegramente, pensando a tutto quello che poteva fare. Proprio in quel momento si imbatté in un uomo che lanciava pietre contro un albero. Salve, signore. Perché sta lanciando sassi a questo povero albero? Non sto tirando sassi a un albero, stupido! Voglio far cadere quel fiore! Questo è il fiore più bello! Fiorisce solo una volta ogni 4 anni! E quello, lassù, sul ramo più alto di questo albero, è l'unico al mondo! È molto prezioso, vedi? Molte persone hanno cercato di raccogliere quel fiore, ma nessuno ci è mai riuscito! Oh, ci posso provare io! Vedo che è arco e frecce! Pensi di essere l'unico arciere ad aver tentato? Nessuno può mirare così in alto! Il contadino prese una freccia e mirò al fiore sul ramo più alto. E senza pensarci due volte, sparò al ramo. La freccia andò sempre più in alto, come se sapesse dove andare. E con un solo rapido tocco, il fiore cadde nelle mani del contadino. Questo è impossibile! Come ci sei riuscito? Beh, onestamente, uno spiritello... Oh, non mi interessa! Dammi il fiore! Ma l'ho fatto cadere io! Perché dovrei dartelo? Questo è ingiusto! L'ho visto per primo e te ne ho parlato! Hai ragione. Va bene, ti darò il fiore. Ma dovrai darmi una ricompensa in cambio. Dopotutto, ho fatto io il lavoro. Il contadino era un uomo onesto, ma l'uomo che stava di fronte a lui era un vero avaro. Tutti in città sapevano che l'avaro era un uomo furbo. Faceva fare agli altri tutto il lavoro e non pagava mai. Nessuno si fidava di lui. Ma l'innocente contadino non conosceva l'astuzia dell'avaro. Hai ragione, amico mio. Ti pagherò 500 monete d'oro per questo bellissimo fiore. Sei d'accordo? Oh, assolutamente. Ehi, aspetta! Dove stai andando? Mi devi 500 monete d'oro. Che cosa hai intenzione di fare? Suonare il tuo violino? Addio! Ha ragione. Cosa posso fare se non suonare il mio violino? Proprio come lo spiritello folletto aveva promesso, l'avaro cominciò a ballare al suono del violino del contadino. Saltellava, piroettava e ondeggiava come il vento. Il contadino continuò a suonare il suo violino. Dopo un po', l'avaro scivolò e cadde in un cespuglio, ma non riuscì a smettere di ballare nemmeno quando il cespuglio spinoso gli strappò i vestiti. Oh, abbi pietà, per favore, fermati! Ti darò la tua ricompensa! Lì, nella mia maglietta! Ci sono 2 sacchetti rossi! Prendili! Ho preso solo quello che mi dovevi. Avresti dovuto consegnarmi subito la mia ricompensa. Me ne vado ora. L'avaro cercò di prendere i suoi vestiti. Ma come? Presto, la notizia si diffuse in tutta la città. L'avaro non era più solo un avaro. Era l'avaro nel cespuglio. Ah, gliela farò pagare! Cosa crede quello? Il giorno dopo, l'avaro andò pieno di rabbia dal giudice. Capisco. Quindi un uomo con un violino e un arco ha rubato il tuo... coro? Sì, vostro onore. Coro? Come può qualcuno rubare un coro? Ha rubato il mio oro, signore! Oro! Le mie 500 monete d'oro! Ah, oro! Sapevo che c'era qualcosa di sbagliato in questa accusa. Harvey! Il tuo compito è quello di trascrivere le accuse. È così complicato? Quindi, un giovane uomo con un violino ha rubato le tue 500 monete d'oro. Porta l'uomo con il violino e l'arco! con grandi difficoltà, finalmente, l'uomo con il violino e l'arco venne trovato e portato davanti al giudice. Sei stato accusato di aver rubato 500 monete d'oro da quest'uomo. Hai qualcosa da dire in tua difesa? Sì, vostro onore. Non ho rubato niente a nessuno. Quest'uomo mi ha dato le monete come ricompensa per aver raccolto il fiore dal ramo più alto dell'albero. Sta mintendo! Non gli ho dato alcuna ricompensa! Beh, giovanotto, è difficile da credere. Voglio dire, 500 monete d'oro solo per avergli portato un fiore? Ma sto dicendo la verità! No! Me li ha rubati! E poi mi ha spinto dentro quel cespuglio! Lui sta mentendo! Non è vero! Sì, invece! Va bene, abbastanza. Ascolta, uomo con il violino, le accuse sono contro di te. L'avaro nel cesp... Voglio dire, questo gentiluomo qui ha delle prove! Condanno dunque l'uomo con il violino a 5 anni di carcere! Dovrai anche restituire le 500 monete d'oro all'avaro nel cesp... voglio dire, a questo gentiluomo qui. Capisco, vostro onore. Per favore, concedetemi di fare una cosa. Vorrei suonare il mio violino per l'ultima volta. No, vostro onore! Non potete permetterlo! Per favore, non fatelo! Oh, ma è solo un'innocente richiesta. No, non lo è! E come si può chiedere di suonare un violino in un tribunale? Questo non può essere il suo ultimo desiderio! Sta andando in prigione solo per 5 anni! Non per sempre! Io... capisco. Quello che dici ha senso, ma per qualche motivo non posso dirgli di no. Mi sento costretto a concedergli quanto richiesto. Il contadino sorrise. Sapeva perché il giudice non poteva dire di no. Vorrei che tutti mi dessero quello che chiedo. Oh, caspita! Dove sono le guardie? Per favore, tenetemi! Per favore! Ma era troppo tardi. Non appena il contadino cominciò a suonare il violino, tutti nel tribunale iniziarono a ballare. Nessuno riuscì a resisterli, né l'avaro né le guardie. Anche il giudice si unì a loro. Oh, cosa sta succedendo? Balliamo tutti, vostro onore. Oh, zitto, Harvey. Il contadino si fermò proprio di fronte all'avaro e smise di suonare il violino. Dia a tutti la verità, altrimenti ti farò ballare per il resto della tua vita. Guardie, arrestatelo prima che suoni di nuovo il violino. Ma il contadino era più veloce delle guardie. Basta, per favore, lo ammetto. Non hai rubato. Ti ho dato io quelle 500 monete d'oro come ricompensa per aver fatto cadere il fiore dal ramo più alto dell'albero! È vero? Sì, è vero! Bene, allora, è deciso! L'uomo con il violino è innocente! L'avaro ha fatto perdere tempo alla corte mentendo! Deve pagare una multa di 500 monete d'oro all'uomo con arco e violino. Inoltre, deve dare tutte le sue ricchezze alla gente della sua città. Questo ti insegnerà che l'onestà è più importante della ricchezza. Il caso è chiuso. Il contadino venne quindi rilasciato. Gli venne data la ricompensa che meritava. Era un uomo duro e determinato. Comprò un pezzetto di terra e continuò a fare il suo lavoro. Nessuno fu sorpreso di scoprire che l'avaro doveva molto denaro a tutti in città. Dopo aver dato via tutta la sua ricchezza, l'avaro nel cespuglio non aveva più denaro. Dovette così lavorare e guadagnarsi da vivere per il resto della sua vita. Fine.